prova. Marco? Marco? Psst. Psst. Psst. Ui. Marco. Fischia, ma non ti sentiamo. Mi senti? Metronomo. I'm clipping. Aspetta. Ehi? Sì? Ti sentiamo? Prova. Marco? Mi senti? Marco. Sì. Fischia. Mi senti? Fischia. Tu ci senti? Marco. E come se Luca tenesse un microfono spento? No, no, stava parlando. Cos'è receive? Che ne fai faccio? Sì. Fischia però. È entrato un francese. Sì, però fischia come parlate. Dovete abbassare l'entrata microfono. Dammi un paio di cuffie. Siamo noi che fischiamo. Perché così sto sentendo il metronomo di Luca. Che adesso non c'è più. Mi senti? Sì, ti sentiamo. Tu ci senti? Fischia. Marco. Fischia. Metti M sul tuo di lato. Marco. Sì. Marco. Senti, fai una chiamata, fai prima. Mi fa schiacciare Marco. Fa videochiamata. Mi senti? Sì, sentiamo. Luca. Ascolta l'aspetto. Arrivi in ritardo. Che cos'è? Ascolta un attimo. Arrivi in ritardo. È molto. Sì, però sì, fischia come parla. Vabbè, questo è un muto che ha... È presente questo situazione? Allora, di fianco, che ci sta barra di volume qua. Vabbè, questo è un muto che ha... disattivi il tuo canale microfonico. Sì, ma col fatto che stiamo usando... E perciò, quindi, dico, abbassa il pitch del... E non delle cuffie. Del microfono. Secondo me ritorna... Senti? Quindi... E perciò, quindi, dico, abbassa il pitch del microfono. Lui, senti? Mettetelo più basso. Come lo alzi subito fischi. Tipo. Quindi è basso? Meno 18. Meno 12. Una cosa mi hanno da fischiare. Okay, non senti mo senti i dialoghi da prima. Una cosa mi hanno da fischiare. Ma tu mi senti in diretta? Non è. È troppo. Usi. Oh. Vedi. Ma sì, mo mi sento tutti conversati. Sì. Sinda, ma se c'ho la webcamera qua, ci vedi? Disattivi il tuo canale microfonico, po'. Sì, ma bus JB has left the room, lì si va, lasciato la stanza. Secondo me ritorna anche quello. E perciò, quindi, dico, abbassate il pitch del microfono. E come fanno a suonare più qua? Impressionante, scusa, a sto punto è meglio su una che Skype. Metti in videochiamata e solo per Skype, però. A parte il fischio, vabbè. Che non provare a collegarci chi in Texas, chi o Cina, chi in Corea, chi. Oh, so, o si non unguia che non sappiamo fare qualche passa. Lo giugno mi ha dato a Bill Gates. Questi sono i qua. Giulia, chiudi la camera. È tutto lungato. Sai che qui ognuno può abbassare il volume dell'altro, che il server stima. In base alla velocità di connessione dovrebbe stimare e metterli a posto, cosa che non sta facendo. Ipotizzo, eh? Io ho Vodafone. Sì, no, la velocità. E che ne so, cellulare 4G. No, di solito va abbastanza bene, però che vuoi, la latenza secondo me è impossibile che non ci sia. Però qua parliamo di un minuto per te. 48 secondi. Tu dici? 48 secondi. Esci perché sembra che sia la freccetta con in basso con un numerino accanto. Dove sta la sezione con la parte del volume? Dove sta la sezione con la parte del volume? Sotto c'è una freccia in basso. Se ci sta MS sotto ci sta una freccia in basso con un numero. La freccia. La colonnina da sinistra. Bravo. E MS qui si sono. No, qui c'è il boost. Sì. Boost off. Qui i volumi più 12 decibel. Luca. Fammelo vedere, c'è la sua videocamera. Questo è quello Questo è quello che io vedo di te, no? Aspetta, questo lo hai sopra. Che ne so, cellulare. No, allora vedi. Questo qua è quello che abbiamo fatto, la colonnina mia del volume, e questo sei tu che sei collegato a questa camera. Tu che tema di questo black? A me ne esce dopo. Così? No, è cagnati. No, è se è nato un. Poi mo dici 32, 16. Ma tu mi sento sopra te. Sotto c'è una freccia in basso. Noi di Eating Uvidi, 64 secondi di ritardo. 50 a Modus, sea. modus, modus che. Sente dopo 64 secondi. Cioè, it sente dopo 64 secondi. Usi Modus. Trentadue, sedici. Ma non andiamo a questo tema black, però.